slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. The high heels on for the baby blues. For the very first time, man oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah, yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah, yeah. She's this rhythm. She's me right. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She is a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama. Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Slick Chick, puntata di fine novembre, l'ultimo giorno di novembre, e giorno freddo in cui per scaldarsi dobbiamo parlare di cose che ci fanno muovere. E infatti, se dovessimo dare un titolo alla puntata di oggi, potremmo scegliere, e io sceglierei, Dance Dance Dance, perché stasera parliamo appunto di ballo. Si potrebbero dire un sacco di cose sul ballo, in effetti, soprattutto in relazione alla musica. Da quando l'ascolto della musica è diventato per molti un consumo individuale o, diciamo, di intrattenimento casuale, il corpo è necessariamente meno coinvolto e concentrato nella musica, in ciò che si ascolta. Si balla di meno, siamo parecchio più ingessati, complessati, intimiditi. I movimenti hanno bisogno di, diciamo, di molto alcol prima di liberarsi. Io almeno noto questo guardando i concerti, spesso partecipando e osservando. Non sempre è così, però, non per tutti, non ovunque e non in tutte le culture, soprattutto e per fortuna, direi. Quindi dedico questa puntata lanzereccia a tutti quelli che si ostinano a ballare sfrenatamente ai concerti, a pogare, a dimenarsi, ad assecondare il ritmo che hanno dentro il sangue. E poi la dedico anche a chi continua ancora a fare del ballo, ma sì, in effetti anche del ritmo, un momento collettivo simbolo della propria controcultura o sottocultura, cultura come la vogliamo chiamare. Come ad esempio i b-boy e le b-girl breaker del Next Emerson. Questa volta, stasera, andiamo in ordine rigorosamente temporale, con un'unica eccezione che vi segnalerò al momento giusto. E in ordine temporale, quindi, partiamo con un pezzo che, diciamo, inizia a essere abbastanza datato, ma insomma fa sempre la sua bella figura. Siamo nel 1951 e questo è un tango in realtà del 1927, ancora più antico, diciamo, composto dall'argentino Julio César Sanders. Sanders, non so dove va l'accento l'argentino. La versione inglese però è stata registrata nel 1951 appunto da Peggy Lee. Due mesi dopo invece la registra Louis Armstrong, come accadeva spesso per quelli che di fatto venivano considerati o si sarebbero poi considerati dei pezzi standard. Quindi vi faccio sentire subito questo pezzo che si chiama When I Dance With You I Get Arias. When we are dancing and you're dangerously near me, I get ideas, I get ideas. I wanna hold you so much closer than I dare care to. I wanna scold you 'cause I care more than I care to. And when you touch me in this fire in every finger, I get ideas, and after we have kissed goodnight and still you linger, I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you're never saying. I only hope they're saying that you could love me too. For that's the whole idea, it's true. The lovely idea that I've fallen in love with you. Your eyes are always saying the things they're never saying. I only hope they're saying that you could love me too. For that's the whole idea, it's true. The lovely idea that I've fallen in love with. Questo appunto era Peggy Lee, I Give Ideas, viene spesso detto soltanto il nome accorciato del pezzo, ma il nome per esteso è When I Dance With You, I Give Ideas. Ma proseguiamo velocemente perché in realtà oggi ho veramente tanti pezzi da farvi sentire, quindi non mi voglio dilungare troppo per non sforare poi dopo. Quindi rimaniamo ancora negli anni 50, abbiamo ancora due pezzi ufficialmente che rientrano in questo decennio e il secondo pezzo degli anni 50 che vi faccio sentire è di Dean Martin, perché non possiamo non farvi sentire Dean Martin parlando appunto di danza e di ballo, soprattutto negli anni 50. Il pezzo che vi faccio sentire si intitola Sway, del 1954. Sway è la versione inglese, anche questa è una versione inglese di un brano non appropriata, non composto in inglese, ecco. Perché la versione originale si intitolava Quien Sera, un pezzo mambo beat del 1953, quindi un anno prima, scritto dal messicano Pablo Beltrán Ruiz. È stato rifatto praticamente da chiunque in realtà questo pezzo, e quando lo sentirete, perché il titolo non è tanto evocativo se non vi ricordate, se non conoscete bene Dean Martin, ma quando lo ascolterete penso che non potete non conoscerlo. Infatti l'hanno rifatto chiunque appunto, ma la prima interpretazione inglese viene registrata appunto nel 1954 proprio da Dean Martin. Si parla ancora di danza e di non aver, come possiamo dire, di non avere occhi che per la persona con cui stai ballando. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me erano le Pony Tails con Come on Joey Dance With Me del 1958, quasi alla fine del decennio degli anni 50. The Pony Tails erano Tony Cistone, Karen Tupinka e Patty McCabe, da cui, dai quali nomi si intuisce che le tre ragazze non erano proprio di origine anglosassone, cosa molto frequente insomma, soprattutto in quel periodo. Vi ricordo, perché non l'ho fatto finora e se no poi me lo dimentico, i social Wombat a cui contattarci: il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail, la casella di posta, posta@wombat@insiberia.net. Contattateci, scriveteci, potete anche commentare sul blog in realtà i pezzi, cioè gli articoli che trovate, o gli articoli stessi sugli eventi, sulle cose che pubblichiamo, o anche sui podcast per commentare la trasmissione, consigliarci pezzi di cui ci siamo dimenticati. Ad esempio, una buona interazione con la mia trasmissione che mi piacerebbe molto raccogliere potrebbe essere quella che su un determinato tema magari voi avete altre idee, altri pezzi che mi sono dimenticata e che magari la volta dopo dico per i più curiosi. Quindi insomma, scriveteci, interagite con noi, che ci fa piacere. Quindi basta, usciamo dal 1958 e dagli anni 50 tutti, arriviamo agli anni 60, proprio il 1960 preciso, con Chubby Checker che praticamente, non so se sapete bene la storia, c'era questo pezzo del 1959, di un anno prima, di Hank Ballard and the Midnighters, E non era un pezzo molto famoso in realtà, sì, cioè, boh, aveva avuto un buon successo, ma neanche troppo, era un B-side di un 45 giri che, boh, non era stato troppo venduto, boh, buttato un po' lì. Un anno dopo, nel 1960, appunto, Chubby Checker ne fa una cover che diventa strafamosa, famosissima, ma che soprattutto inventa un nuovo ballo, il twist. Ballando nella vostra cameretta, vero? Questo era infatti The Twist di Chubby Checker nella sua versione. Se ascoltate la versione dei Hank Ballard and the Midnighters, in realtà è molto simile, non è che c'è tutta questa differenza. Si dice che sì, sia più accelerata, in effetti lo è, ma non di tantissimo. Non so bene dire perché la prima non abbia avuto successo e la seconda invece è stata una bomba internazionale, perché boh, sì, effettivamente ha più tiro questo pezzo, ma non è che io ci ho colto tutte queste differenze. Ma vabbè, tra l'altro leggevo, non so se sia vero, ma che il twist fu una di quelle cose, uno di quei balli che contribuì a rendere socialmente accettabile il rock and roll nelle famiglie bianche, perché le mamme, i genitori approvarono, iniziarono a provare un pochino di più che i loro scapestrati figli ballassero rock and roll da quando arrivò il twist. Forse perché il twist, a differenza delle movenze spiccatamente sensuali che c'erano fino ad allora, il twist è molto più giocoso e boh, in fondo innocente. Per spiegare senza poterlo vedere che cos'è il twist, veniva usata questa immagine del spengi la sigaretta col piede e strofinati il ginocchio con un asciugamano. Vabbè, tant'è. In ogni caso, evidentemente questo bastò alle mamme, ai babbi delle famiglie americane medie, boh, per tranquillizzarsi e pensare che il rock and roll in fondo era una cosa tranquilla, deficienti, ma insomma tranquilla, o almeno iniziare a pensarlo. Questo dicono, non so, penso che la storia sia molto più ricca di dettagli e che non sia tutto così semplice, ma insomma è una curiosità. Continuiamo nel 1900, negli anni 60. Nel 1962 esce questo pezzo che si chiama Book of Dance dei Monotones. I Monotones erano un sestetto di doo-wop vocale, conosciuti essenzialmente per la loro unica hit, The Book of Love, che penso qualcuno di voi avrà sentito, insomma, piuttosto famosa, pubblicata nel 1959, qualche anno prima. Brillando per fantasia, insomma, registrarono qualche anno dopo, appunto, poco prima di sciogliersi, tra l'altro, perché, insomma, era evidente che non avevano grandi idee, ecco, questo pezzo che si chiama appunto Book of Dance. Non ha assolutamente avuto successo, ma è, secondo me, è interessante per le sonorità che, anche se rimangono rock and roll anni 50 pieno, come sentirete, soprattutto all'inizio, poi quando entrano i cori, io almeno ce lo leggo, ci vedo un po' un'anticipazione di quello che poi è diventato il rocksteady giamaicano di pochi anni dopo. Quindi, boh, provate a sentirvelo, ditemi anche voi se ce le vedete, forse no, è una pippa mia, però boh, vediamo. Once upon a time there was a dance, moving on the floor in a crazy crash. Somebody said, do it like this, all of a sudden we did the twist. That is a book of dance, that is a book of dance. All right, 'cause nights are long since we parted. questo erano The Miracles, I Got a Dance to Keep from Crying, 1963, uscito per la Motown. Avete riconosciuto probabilmente il sound tipico della Motown. E uno dei pezzi, cioè delle frasi con cui inizia, è: sono stanco di starmene seduto qui triste. Non stupisce che il soul sia stato poi recuperato da tutta la classe lavoratrice britannica, operai, cassiere, minatori, giovani stanchi morti, che non vedevano l'ora di scappare di a casa, magari anche di casa spesso, cambiarsi e correre al Vigan Casino a ballare tutta la notte il Northern Soul. Io almeno me l'immagino così. E su YouTube ci sono un po' di video sul Northern Soul, sul Vigan Casino, sul sound di quel periodo. Vi consiglio di andarli a vedere, sono molto interessanti e molto belli. E in realtà faremo, penso, una trasmissione, una puntata apposita sul Vigan Casino, perché boh, se la merita, secondo me è molto bella e molto interessante. Come, sia come periodo che come simbolo di quel che era quel ballo e cosa ha portato e cosa ha significato. Continuiamo nel 1960, siamo adesso, ci inoltriamo nella metà, arriviamo al 1965 e arriviamo a Bo Diddley. Bo Diddley con Let the Kids Dance. Bo Diddley è uno degli indiscussi padri del rock and roll. Lo conoscerete, vi sarà capitato di sentirlo, immagino, spero, se non insomma ascoltatevelo. Rock and roll, quello radicato nel blues, bello, profondo, roco, nato in Mississippi, sia quel rock and roll sia Bo Diddley, che è nato e cresciuto a Mississippi, all'intorno in quelle zone, è cresciuto all'ombra di Muddy Waters. La notizia biografica più sconvolgente che sono riuscita a trovare è che nel 1983, nel film Una poltrona per due di John Landis, che non potete non aver visto se siete figli degli anni 80 e 90 come me, Bo Diddley interpreta la parte del proprietario del Monte dei Pegni, in cui Dan Aykroyd impegna il suo orologio in cambio di una pistola e dei soldi. Io non mi ricordo assolutamente di questa scena, ma devo assolutamente andare a rivedere Una poltrona per due e sopportarmi tutto quel film soltanto per vedere questo pezzetto. Il titolo del testo di questo pezzo, come vi dicevo, è Let the Kids Dance, e secondo me è inequivocabile e perfetto. Let the kids dance. Let the kids dance. Let the kids dance. Let the kids dance. 'Cause they only got a conscience. Don't you see them? They only got a conscience. Go ahead and dance now. Let the kids dance. Let the kids dance. Dopo dopo Bob Diddley, difficile già da dire, arriviamo, beh, non possiamo non arrivare che a James Brown, per forza, parlando di musica e di ballo soprattutto, dobbiamo per forza arrivare a James Brown. Il primo James Brown, i primi pezzi in realtà, perché siamo ancora negli anni 60, precisamente nel 1965, e vi devo far sentire per forza quello che da molti viene considerato il primo pezzo funk, Papa's Got a Brand New Bag. Comunque, se non è il primo pezzo funk, in ogni caso è quello che ne ha un po' segnato l'inizio, che ha un po' dato il là alle danze, per l'appunto. Originariamente la canzone durava più di 7 minuti, anche se invece adesso la versione che vi faccio sentire io, che poi è la versione che è stata registrata e che circola di più, dura all'incirca 4 minuti, quindi è stata quasi diminuita quasi della metà. Aveva un intro parecchio più elaborato e il ritmo era più, un po' più lento, è stata velocizzata. In seguito James Brown quindi la accorcia, taglia l'intro velocizzando tutto, e quello che ne viene fuori è questo pezzo decisamente funk nel momento in cui il funk non esisteva ancora. Bag, perché il titolo, vi ricordo, è Papa's Got a Brand New Bag. Bag in slang si può tradurre con qualcosa di simile alla parola stile, mi verrebbe da dire. Forse qualcuno che sa l'inglese meglio di me ha una traduzione migliore. Comunque prendete per buona questa traduzione casereccia, stile, mettiamo. Quindi Papa ha un nuovo stile, uno stile nuovo di pacca. Di questo nuovo stile, appunto, parte fondamentale è il ballo. James Brown balla praticamente tutto il tempo. Si vede anche, c'è un video del tempo del 65, appunto, dove James Brown viene registrato in televisione, e si vede, lo potete osservare in tutto il suo stile, per l'appunto. Lui balla tutto il tempo e il brano infatti è pieno di citazioni di balli in voga in quegli anni. The Jerk, The Fly, The Monkey, The Mashed Potatoes, cioè hanno dei nomi assurdi, The Alligator, The Twist, che abbiamo già citato, The Boomerang, un altro. E li mimano lui, i coristi e un po' tutti, perché insomma era abbastanza allusivo e ovvio. E quindi niente, sentitevelo, Papa's Got a Brand New Bag, anche questo è un pezzone che sicuramente avrete già sentito mille volte, ma fa comunque piacere risentirlo. James Brown. See what you know. Come on, see what you know. cheap, you know he ain't shy. Doing the monkey, the mashed potato, jump back, jack, alligator. Dopo James Brown, rimaniamo sempre negli anni 60, ma spostiamoci di un anno, nel 1966, con Wilson Pickett. Questa versione, questo pezzo che vi faccio sentire si chiama Land of 1000 Dances, è stra famoso. La versione originale in realtà però è di Chris Kenner, che riprendeva un vecchio spiritual della tradizione americana. Però come spesso accade, l'abbiamo già trovata una situazione del genere prima, ma insomma nella storia della musica avviene di continuo e è avvenuto di continuo, la versione più famosa di questo pezzo in realtà non è quella originale, ma sicuramente quella appunto di Wilson Pickett, che a sua volta poi è stata citata e rifatta da altri mille gruppi. Così come si usava fare all'epoca, il testo ruota intorno a un lungo elenco dei principali balli in voga al momento, un po' simile a come abbiamo sentito fare prima a James Brown. Niente di più, niente di meno, è un po' questo, il testo non è che è molto di più e non è che dice granché. Ma diciamo che a volte il ritmo conta più di tutto il resto, ecco, diciamo... One, two, three. One, two, three. Sarà appunto Wilson Pickett, l'avrete riconosciuto, se non l'avete riconosciuto però almeno avrete riconosciuto il pezzo senza ombra di dubbio. E adesso c'è il salto temporale di cui vi avevo accennato all'inizio, perché dagli anni 60, dal 1966 per la precisione, voliamo a pochi anni fa, nel 2012. Questo perché il pezzo che vi faccio sentire adesso è una risposta a Wilson Pickett. Non è una cover di questo pezzo, ma è proprio palesemente un omaggio e una risposta a lui. Perché questo pezzo si intitola Land of 7 Billion Dances e The Coop. Il video di questo pezzo, se lo andate a cercare su YouTube, si apre, o dove volete, si apre con le immagini di un pullman di Occupy Oakland, tanto per chiarire subito di che scena e di che persone stiamo parlando. Quindi già subito ci piace. I Coop sono un gruppo hip hop attivo in realtà da un sacco di tempo, dal 1991 per la precisione, ma probabilmente, non lo so, troppo radicale per essere conosciuto ai più anche qui in Italia. Alcuni lo conosceranno anche perché insomma non è proprio un gruppetto, però diciamo che non è che spicca tra i nomi nell'Olimpo dell'hip hop internazionale visto dagli occhi degli italiani, ecco. I loro testi sono molto politici, con titoli alquanto espliciti come 5 million ways to kill a CEO, oppure anche Your Parents Cocaine, con il video che tra l'altro, dove compare tra l'altro anche Justin Sane degli Anti-Flag, così. E ovviamente per questo si sono tirati dietro un bel po' di critiche di patriottici americani sdegnati, indignati, ma devo dire anche un sacco di recensioni entusiaste, perché insomma il gruppone lo merita. L'MC Boots Riley, oltre a essere un dichiarato maoista come penso solo in America esistano, ha anche messo su con Tom Morello dei Rage Against the Machine un altro interessante gruppo che si chiama gli Street Sweeper Social Club. Vi consiglio di andarveli a vedere anche questi perché sono piuttosto interessanti. Per questo pezzo che vi faccio sentire ringraziate il b-boy Ginox che me l'ha fatto conoscere, perché altrimenti io non avevo la più pallida idea di chi erano questi Coop, e quindi beccatevi questo pezzo. Yeah, we agitate it. Yeah, we bump and break it. Yeah, we finna take it. Hey, now we gon' work it. Yeah, we jam the circuit. Yeah, we got the verdict. Yeah, it's fuck that circus. 1, 2, 3, 4. Electromagnetic with a bomb aesthetic. But we ain't ready, and it got no credit. Listen real close to my phonetics. The monster is awoken, I hope you fit it. This your first time here, raise your hand. If the police come, hide the contraband. We all leave in a box in a long sedan. How you want your name read by the anchor man? Drop the hips, apocalypse. We horn out here cause they got the chips. Like put it anywhere but not the lips. Take over, let's plot the shit. Yeah, we agitate it. Yeah, we bump and break it. Yeah, we finna take it. Hey, now we gon' work it. Yeah, we jam the circuit. Yeah, we got the verdict. Yeah, it's fuck they circus. 1, 2, 3, 4. Shut them down, close the books. Them dudes in the boardroom, those is crooks. Take it to the street, bows and hooks. If they stop they money, they frozen shook. Motherfucker, dab, damn it. And we've been backhanded all across the Atlantic. And we're finna start static all around the damn planet. Make your ass crack, bandit, while we change the mathematics. I guess y'all wonder why I called this meeting. Paycheck cut can't stop the bleeding. Sharks are feeding, we ain't eating. No more bleeding, time for stampeding. Yeah, we agitate it. Yeah, we bump and break it. Yeah, we finna take it. Hey, now we gon' work it. Yeah, we jam the circuit. Yeah, we got the verdict. Yeah, it's fuck that circus. 1, 2, 3, 4. erano appunto The Coop, Land of 7 Billion Dances. Guardatevi il video perché veramente ne vale la pena, al di là ora del pulmino di Occupy Oakland, che vabbè è una nota di colore, ma in realtà ci sono tutti loro più tutte le crew, immagino, a loro affini che ballano, e è veramente uno spettacolo da vedere. Ma in realtà questa è stata una piccola digressione temporale, però in realtà eravamo a fine degli anni 60, se vi ricordate, con Wilson Pickett. Ora torniamo alla fine degli anni 60 e andiamo oltre, superiamo gli anni 60, arriviamo all'inizio degli anni 70, precisamente nel 1972 con John, I'm Only Dancing di David Bowie. Sono state fatte molte speculazioni su cosa intendesse Bowie in questo testo, che in italiano suona come John, sto solo ballando, dove John potrebbe essere il suo amante geloso che deve essere rassicurato, oppure potrebbe essere invece si potrebbe trattare, cioè chi parla potrebbe essere un etero che rassicura il fidanzato della ballerina, ma poi in realtà per forza doveva stare ballando con una donna, non è mica detto. Insomma, Bowie, con la sua ambigua ironia e il suo timbro di voce altrettanto ambivalente, che va da un timbro alto e squillante, è nervoso, ma passa anche a delle sonorità molto più basse, maschili o cosiddette maschili, lascia aperte un po' tutte le possibilità e tutti i gusti. Qualcuno sostiene addirittura che fosse una frecciata questo testo a John Lennon, che poco tempo prima aveva fatto dei commenti sul suo modo di vestirsi con abiti femminili, e quindi suonerebbe proprio come John, sto solo ballando, e sarebbe un'interpretazione deliziosa, a me mi piacerebbe tantissimo, anche perché mi sta sul cazzo a me John Lennon, ve lo devo dire, e quindi secondo me sarebbe veramente una bella interpretazione, io voglio credere sia così, ma purtroppo secondo me non è vera, è un'interpretazione un po' fantasiosa, ecco. Negli Stati Uniti John I'm Only Dancing venne da subito vista come una canzone gay e il singolo non fu pubblicato perché considerato troppo allarmante dalla RCA americana. Il video, se non ve lo ricordate, guardatevelo, con la troupe di Lindsay Kemp, all'epoca fu considerato troppo allusivo dalla BBC, quindi si rifiutarono di mandarlo in onda a Top of the Pops e trasmisero al suo posto un filmato con dei motociclisti e una ragazza che ballava su una collina. Bellissimo secondo me questa cosa. Ma anche prima di girarlo, sul momento proprio stesso in cui lo girarono, pare che il costume di Bowie, che se non ve lo ricordate era un costume molto particolare perché era una tutina un po' aliena fatta di pizzi colorati di verde e trasparenti, dove c'erano cucite tre mani aliene che afferravano varie parti del corpo di Bowie, una era sul petto, una era sulla spalla e la terza mano afferrava i genitali, spuntava da in mezzo alle gambe. Chiaramente la BBC, penso, non lo so, si misero a urlare come pazzi e al momento di iniziare le riprese dissero no, ti sei pazzo, non si può fare assolutamente, gli torsero la terza mano che gli spuntava da in mezzo alle gambe. Il problema è che questa terza mano in realtà serviva anche come mutande di fatto, e quindi serviva anche a coprire i genitali, e quindi fecero un casino e fecero molto peggio. Così, però ormai il danno era fatto e il video è stato girato un po' così, questo per capire e rendersi conto ancora una volta di quanto la censura sia fatta da persone intelligenti. Oltre alla chitarra di Mick Ronson in questo pezzo potete anche sentire la chitarra di Lou Reed, così io non lo sapevo, ora lo sapete anche voi. Basta, John, I'm Only Dancing di David Bowie. And it's pretty neat, always eat some meat. Joe is awful strong, bet your life is putting us on. Oh no dear, oh no dear, you know I feel some love here. Touch me. John, I'm only dancing. She turns me on, but I'm only dancing. She turns me on. love was quick and keen. Life so well run the scene. I saw you watching from the stairs. You're everyone that ever cared. Oh, Lordy. Questo era appunto David Bowie con John I'm Only Dancing del 1972. Ora passiamo alla frecciata, perché ve la dovevo far sentire dalle stelle alle stalle, diciamo, perché parlando di ballo appunto non posso non farvi sentire questo pezzo, Dancing Queen degli ABBA. La prima esecuzione in pubblico avvenne in occasione della vigilia del matrimonio di Re Carlo XVI Gustavo di Svezia e si tiene nel Teatro dell'Opera di Stoccolma. Cioè, vi prego di immaginarvi la scena in cui gli ABBA, vestiti con costumi tradizionali del XVIII secolo, ormai in realtà già strafamosi, onorarono la futura regina cantando questo pezzo, Dancing Queen, per la prima volta. Young and sweet, only 17. Mi dovete perdonare la trashata, ma lo dovevo fare, era una cosa che non potevo farne a meno. E quindi, d'altra parte, siamo negli anni 70, ormai tutto sta esplodendo in questa maniera, tutto è molto più plastificato e patinato, e quindi arriviamo dagli ABBA, restando sempre però nel 1976, a Tina Charles con un pezzo dal testo veramente triste e sconsolato che si chiama I Love to Love. Infatti il ritornello che continua a ripetere in maniera ossessiva e disperata è I love to love but my baby just want to dance, insomma, che direi che non c'è bisogno di tradurlo. Nel 1993, questa cosa qui mi ha veramente sconvolto, la canzone è stata oggetto di una cover in Italia, venendo ricantata da Anna Maria Di Marco, che non ho la più pallida idea di chi sia, ma comunque mi dispiace per lei, e per il programma televisivo Non è la Rai, dove veniva interpretata in playback da Emanuela Panatta. E vabbè, cioè, non avrei mai voluto leggerla questa cosa, però d'altra parte, cioè, certi segreti non posso tenerli solo per me, comunque dovete aiutarmi a condividerli. Insomma, a condividere anche questo fardello. Quindi beccatevi sto pezzo, che in realtà è un pezzo anche bello, strafamoso. Tra l'altro Tina Charles dopo non è riuscita mai più praticamente a fare altro. Continua a cantare anche adesso, ma comunque tutti vogliono sentire sempre soltanto I Love to Love, perché comunque è qualcosa che ti resta in testa tantissimo e ha un testo veramente struggente, per cui che si deve fare? Tutti vogliamo da Tina Charles e da Emanuela Panatta questo I Love to Love. Vi sto condensando tutto adesso, perché d'altra parte se dobbiamo fare gli anni 70, questi erano gli anni 70, e comunque averne, insomma, mi verrebbe da dire. Nel 1977, per rimanere sempre in questo decennio, gli Chic fanno uscire questo pezzo che si chiama Dance Dance Dance, tra parentesi Yousa Yousa Yousa. Questo pezzo è uscito, e tutto l'album in generale, è uscito per la piccola etichetta Buddha, e che poi in realtà poi gli Chic sono stati scoperti e mangiati dall'Atlantic, quindi diciamo che sono passati dall'etichetta Buddha, comunque più che rispettabile, al colosso americano. Perché in effetti Dance Dance Dance Dance, Dance diventa una hit di successo, molto in fretta peraltro, probabilmente perché pompati anche dall'Atlantic insomma, in quegli anni, ma non solo in quegli anni, le cose andavano così. Diventa una hit che arriva anche ovviamente allo studio 54, ma la notte di Capodanno del 1977, quindi pochi mesi dopo l'uscita di questo pezzo, Bernard Edwards e Nile Rodgers degli Chic, appunto, che facevano parte del gruppo, vengono buttati fuori dal locale, dallo studio 54, non voglio sapere il perché, non ce lo chiediamo. Tornano a casa, scrivono un pezzo sulla vicenda che si intitola Fuck Off, che poi cambia il nome in Freak Out, più polite, e ancora in The Freak, uno dei più famosi pezzi disco music di sempre. La disco music era, possiamo dirlo via, un tantino ossessiva, ecco, soprattutto nei testi, e non è che insomma si potesse ricordare per i suoi testi pregni di significato. In questo pezzo, per esempio, la parola dance appare più di 100 volte, giusto per dare, insomma, perché si doveva capire, ecco. E la parola Yousa, che compare ogni tanto e che poi tra l'altro viene messa anche nel titolo, tra parentesi, è una parola in realtà afroamericana, che vuol dire la strabiliante parola di sì. Era così, il testo era un po' così, era quello che era. Comunque, sentitevi sto pezzone degli Chic, Dance Dance Dance. Thank you. Ecco, gli Chic usciamo dagli anni 70, dai vorticosi anni 70, e finiamo a capofitto quella palude che era gli anni 80. E ci fermiamo proprio nel 1980, tonto, esatto, perché ci fermiamo nell'80 perché c'è un disco uscito in quell'anno che si chiama Song the Lord Taught Us, che insomma è un disco non da poco, dei Cramps, e il pezzo tratto da questo disco che vi voglio far sentire si chiama Zombie Dance. Vogliamo che i ragazzi americani tornino a ballare, dichiarò Lux Interior in una delle prime interviste dell'epoca, e con questo in parte riprendeva quel filo ritmico e programmatico, potremmo dire, che lega il rock and roll anni 50 al glam rock proto-punk dei primi 70. Il secondo chitarrista, Brian Gregory, invece, spese delle parole positive per la disco music, cosa che in quel periodo non era niente affatto scontata, in quanto musica di consumo e perché percepita a livello epidermico come arte del disimpegno e dell'effimero, potremmo dire. Nella concezione dei Cramps la musica viene di nuovo identificata in toto col ballo, perché è un evidente codice di aggregazione e di condivisione. Tutto questo, inserito nel contesto individualista rampante degli anni Ottanta, non è, direi che non è affatto un concetto banale da sottovalutare. Zombie Dance, The Cramps. E mi ero distratta per fare una corsa, infatti c'ho il fiatone, ma mi dovete prendere così perché sono dovuta andare ad aprire alla regia ai prossimi conduttori di 8 Hertz, quindi mi dovete perdonare. Ma in realtà adesso continuiamo, appena mi ripeto mi viene un infarto, e il prossimo pezzo che vi faccio sentire è dei Bauhaus. Quindi iniziamo a calare un po' il ritmo, in realtà neanche troppo, però insomma caliamo un po', quantomeno le atmosfere diventano un po' più cupe, un po' meno alle grotte, e tra l'altro l'avevamo fatto con i Cramps, e il pezzo che vi faccio sentire adesso si intitola St. Vitus Dance, quindi il ballo di San Vito praticamente, nel 1980, quindi rimaniamo in questo anno evidentemente importante. L'album si chiama In the Flatfield. Allora, praticamente una delle dichiarazioni che che fecero i Bauhaus fu: torniamo al caro vecchio ballo, quando ballare significava esplodere. È proprio una delle frasi contenute nel pezzo stesso. E il ballo di San Vito, appunto, detto anche la Corea di Sydenham, Corea minor, sì. Detta anche Corea infettiva o Corea reumatica o ballo di San Vito, appunto, che è un disturbo caratterizzato da rapidi movimenti a scatto scordinati, appunto corea, che si verificano soprattutto nel viso, nelle mani e nei piedi. La definizione ballo di San Vito fa riferimento all'omonimo santo, martire cristiano, morto nel 303 d.C., patrono dei danzatori. Il pezzo in realtà sembra alludere però, molto più probabile, insomma, non credo che gli fosse venuto un attimo una voglia di parlare del ballo di San Vito come capostella, per fortuna no, e in realtà sembra alludere agli spasmi muscolari dovuti alle scariche elettriche di un elettroshock, oppure alla sede elettrica o a quello che, insomma, vi potete immaginare. Quindi Bauhaus, St. Vitus Dance, così forse mi ripiglio anch'io, e sentitevelo. Good old days when dancing meant exploding. The idea was simple for a decent overloading, and for a monochrome flash with no cards attached. The camera with a more remote flash trigger. It's connected to an accessory to his hip, which automatically fires in perfect synchro. But perhaps his only sign development is his angle. They call it the dance. It's the same as dance. Such flexibility. E queste erano le Go-Go's, The Way You Dance, che abbiamo sentito dopo St. Vitus Dance dei Bauhaus. Questo delle Go-Go's era un pezzo del 1982 dall'album Vacation, che è il secondo, fra l'altro, album delle Go-Go's. La conoscerete, alcuni di voi conosceranno anche solo di nome la cantante, che si chiama Belinda Carlisle, forse qualcuno di voi se la ricorderà. La band, tra l'altro, ha rappresentato, pare, l'unico gruppo completamente al femminile e del tutto autonomo a raggiungere la vetta delle classifiche di vendita, se questo è una cosa importante. Più che altro del fatto che siano arrivati in cima alle classifiche, a me personalmente non mi può fregare di meno, però è interessante il fatto che non erano una di quelle 2000 band che invece esistevano femminili, che però erano costruite a tavolino da manager uomini, che sostanzialmente, come avveniva invece per ad esempio le band femminili degli anni 60-70, dove i complessi appunto di donne facevano figo, e quindi dei manager a tavolino decidevano: ok, ora facciamo sfondare 4-5 donne che sanno cantare, le portiamo a successo e gli costruiamo una carriera fatta a tavolino. Le Go-Go's effettivamente andò un po' diversamente, perché comunque quantomeno gli va dato atto che si autogestirono il tutto e le idee erano le loro, e non fu una cosa, una creatura fatta a tavolino, ecco. Al di là di quello, poi insomma hanno fatto secondo me un paio di album belli, e poi dopo si sono completamente sbracate, soprattutto per Linda Carlisle, però vabbè, le cose vecchie, cioè, secondo me sono comunque belle e più che dignitose, ecco. Continuiamo, siamo praticamente alla fine, ci mancano soltanto 3 pezzi alla fine, prima della prossima trasmissione, quindi ho giusto il tempo al volo di leggervi gli appuntamenti fiorentini di questa settimana, che per fortuna mia, che ho poco tempo a disposizione, sono pochi, sono soltanto 2, e tutti e due in polveriera, alla polveriera. Quindi giovedì 1 dicembre alla polveriera alle 17 c'è un dibattito su cosa significa e cosa non significa il no al referendum, alle 19 aperitivo, alle 20 concerto con Lamiere, e alle 21 la presentazione di Franti MM, è un libro DVD sulla storia di Franti. Se non sapete chi sono i Franti, andateci, perché secondo me non ve ne pentirete, secondo me è molto interessante il libro pure, che ho letto, mi sento di consigliarvelo. Venerdì 2 dicembre invece, sempre alla polveriera, alle ore 17.30 presentazione della Scarceranda del 2017, a cura di Radio Onda Rossa e di tanti compagni romani, quindi anche lì vi consiglio di fare una capatina a sentire cosa hanno da dire e a comprarvi la Scarceranda di quest'anno, che comunque sono soldi ben spesi. A seguire aperitivo e musica. Vi ho detto un po' tutto, e se questa agenda del Wombat ancora non è completa, non ci sono le cose, gli appuntamenti, vi preghiamo di segnalarceli, perché essendo questa una radio completamente autogestita, il nostro tempo lo rubiamo al lavoro e alla disoccupazione e al resto della vita, quindi non abbiamo tempo di stare dietro un po' a tutti gli eventi fiorentini che ci sono. Se ce li dimentichiamo, vi preghiamo di segnalarceli ai contatti che vi ho dato prima, che ormai dovreste sapere. Ma andiamo avanti velocemente. Il prossimo pezzo che vi faccio sentire è di Leonard Cohen, il compianto Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, famosissimo pezzo del 1984, che però io non vi faccio sentire nella versione originale di Cohen, ma nella versione di Dresden Dolls, che a me piace un sacco. È un live, quindi si sente un po' malino, non è proprio l'audio perfetto, ma insomma secondo me è molto bella. Dance me through the panic.

chim, chim, chim, sing a song of praise for your elder there in the back. Pick out some Brazilian nuts for your engagement. Check that expiration date, man. It's later than you think. You can't enjoy yourself. I can't enjoy myself. You can't enjoy yourself. I can't enjoy myself. Move that swing and watch it break straight like an arc. But I won't be there to leave you. Oh, oh, oh. 'Cause I don't have a clue anymore. Maybe we could dance. Maybe we could dance. Maybe we could dance together, together, together, together. First time you see. Questi sono i Pavement con With Dance. Non sono io che ho sfumato il pezzo malamente, ma sono loro che è così, il pezzo è volutamente sfumato alla fine, ve lo dico, andatevi a sentire il disco se non ci credete. Un disco, quello di Wowie Zowie, del 1995, che contiene appunto questo pezzo With Dance. I Pavement sono una band californiana, si potrebbe dire lo-fi, che è stata attiva per direi per tutti gli anni 90 e secondo me hanno preso il meglio del periodo attingendo dai Pixies, dai Sonic Youth e un po' da tutta quell'atmosfera di quegli anni. Prima ancora vi avevo annunciato appunto i Dresden Dolls con Leonard Cohen, Dan Smith, The End of Love. Finiamo, siamo veramente alla fine e prima di lasciarvi con Otto Hertz vi faccio sentire questo pezzo perché abbiamo finito un po' tutte le decadi, ecco. Perché dal 95 arriviamo agli anni 2000 e siamo nel 2008 con Likely. Questo pezzo che si chiama ancora una volta Dance Dance Dance, evidentemente questa cosa piace a diversi. Sono indecisa riguardo a Likely, che non so quanti di voi conosceranno. È una cantautrice svedese con una vocetta molto bella secondo me, che però a mio gusto oscilla, mi viene da dire, tra le cose scure e le cose un po' troppo plasticose. Per dire, ha collaborato con David Lynch cantando un pezzo nel suo secondo album di Lynch, ma ha pure scritto appositamente un brano per la colonna sonora della saga di Twilight, quindi insomma è un po' indecisa secondo me sul da farsi, quindi non so, decidete voi. A me questo pezzo comunque piace, ve lo faccio sentire, vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre intorno alle 21 con Slick Chick. Rimanete assolutamente in ascolto della Wombat Radio e in particolare di 8 Hertz e delle sue tonalità scure. Tra una settimana, ciao ciao. Shaking my hips. took full swing, the words are written in the air. What will come? I was a dancer all along. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Easy conversations, no such thing, no, I'm shy, shy, shy. My hips, they lie, cause in reality, ay, I'm shy, shy, shy. But when I trip on my feet, look at the ground, the words are written in the dust. When I'm shaking my hips, look for the swing, the words are written in the air. I'm